Questa è la sigla di Desmonautica, la rubrica di Dennis ogni ultimo mercoledì del mese, e l'argomento di oggi parla di giornalismo e si intitola Guida turistica al giornalismo discutibile. Non avere un pensiero e saperlo esprimere è questo che fa di qualcuno un giornalista, Karl Kraus. Vorrei mostrarvi i traumi, più che altro cranici, di alcuni trend giornalistici incarnati nel decennio corrente in modo vieppiù cretino da varie tipologie presenti nell'ecosistema redazionale dei mass media. Ogni buon giornalista deve essere un pensatore critico e scettico, e loro in effetti sono araldi del dubbio, più specificatamente del dubbio gusto, della dubbia veridicità. Mi sono sforzato di tracciarne un'approssimata tassonomia, vediamoli insieme. Il benaltrista. Qualunque sia l'interrogativo posto al mondo, la rivoluzione per cui sbandierare non sarà mai stanza seria abbastanza da conseguire la sua entusiastica approvazione. Sei gay, bisessuale, lesbica, transgender, intersessuale? C'è ben altro di cui occuparsi. Ti batti per il benestare della sanità, dell'istruzione, della cultura in generale? C'è ben altro di cui preoccuparsi. Sessismo, razzismo e molti altri ismi ti paiono orribili mali che affliggono l'odierna società? C'è ben altro di cui preoccuparsi. Pensi che esista una carenza di pratiche inclusive nei confronti delle persone disabili? C'è ben altro di cui preoccuparsi. Cosa, allora? A giudicare dall'eterna filippica sulla disoccupazione che è in procinto di elargire anche quando gli si intima di farsi la barba, si penserebbe che il welfare sia un suo interesse fondamentale. Ci si illuderà quindi che forse parlare di tematiche adesso relative è ciò che ci vuole per accalappiarsi i suoi favori. La realtà tristissima è un'altra. Lottare a favore di lavoratori e lavoratrici renderà ai suoi occhi qualsiasi umano degno di nota una schifosa sanguisuga statalista. Il benaltrista è infatti la voce della piccola e media imprenditoria, e da buon borghese non si cura di nulla che non sia il proprio portafogli. A leggerlo viene da rimpiangere il caro vecchio edonismo sfrenato da milionario cocainomane, sicché quest'ultimo ha il buon pregio di fottere il prossimo suo senza annoiarlo. Non c'è suo articolo che non contenga un'invettiva esterofila contro l'inadeguatezza dello Stato italiano, diretta a quelle poche cose che funzionerebbero in modo perfetto producendo ottimi risultati se non fossero state deturpate dallo smantellamento neoliberismo di qualsiasi forma di supporto sociale, distruzione che egli stesso promuove. Il suo ghiribizzo auto-assolutorio accoglie tenero alcuni sinistroidi sperduti, poiché questo genere di lamentele agli occhi poco attenti pare ammantarsi quasi, per via del suo materialismo, di una vaga vena socialisteggiante. E insomma, per Dio, ci sono i bambini affamati in Africa, i marò, ci vuole la pace nel mondo, e poi mio fratello piscia a letto. È increscioso che nessuno si preoccupi mai dei veri problemi. Lo spargi pietà. Parla di ciò che ha nel mirino nel modo più sgarbatamente patetico. I suoi sono articoli di vivace depressione di mezza età, che infantilizzano i lettori e gli oggetti della discussione, proprio come se stesse facendo dono di una lezione di vita ai nipotini che lo guardano con finta ammirazione, grattandosi le pudenda di fronte al caminetto. La forte vena provinciale, spruzzata di voyeurismo inconsapevole, provoca sbadigli tali da ammaccare la mascella, impedisce ogni volontà di disamina analitica. Negli ultimi tempi sembra essere disgraziatamente in voga presso varie femmine della specie Homo editorialis, per via della cultura patriarcale che spesso spinge le donne a sottoporre se stesse e le altre al tedio di farsi acute difensore del codice morale socialmente accettato e accettabile. Alcune tematiche predilette? La gioventù, il sesso, la droga e bei tempi andati non corrotti della morale decadente, la quale pare decadere ruzzolando giù per i viottoli della modernità malvagia più o meno da quando esiste vita cosciente su questo pianeta. L'emergenziale. Si tratta di una creatura che va a caccia nelle stagioni calde. Essendo l'estate priva di eventi particolarmente significativi che diano aria ed euro ai rotocalchi, responsabilità impellente non esitare a impastare in prima pagina eventi sì certamente orribili, ma di nessuna particolare novità, che divengono d'un tratto emergenze nazionali atte a sponsorizzare l'agenda politica del primo brontolone che passa e abbia in mano una soluzione inappropriata e inefficace. Un rimedio peggiore del problema, ovvio. Cosa pensavate? Il narcisista. Il suo articolo è tipicamente incentrato sulla critica feroce di fenomeni di costume di scarsa rilevanza, che, tuttavia, procurano diversi pruriti cerebrali. e talvolta intimi al suo autore, e sopporrà il suo antidiluviano spirito del tempo a quelle di tutte le generazioni successive, alternando nostalgici panegirici della bellezza di ciò che fu e stizzite missive di damnatio eterna. Lo farà nella lamentosa speranza di continuare a ricoprire un ruolo di rilievo nel mondo che cambia, ammesso e non concesso che l'abbia mai ricoperto. In tutti i casi propone tesi ridicole con arrogantissima sicumera, lasciando intendere che la sua sia, in primo luogo, un'opinione necessaria, in secondo luogo un'opinione legittima e in terzo luogo l'unica realmente concepibile da primati di media intelligenza. Poco propenso all'uso delle infinite potenzialità del testo argomentativo, depone tutta la forza delle sue ragioni nei suoi parametri anagrafici, nel suo titolo di studio, meglio se privato, in ricerche che ha male interpretato o esplicitamente manipolato, nelle opinioni dei suoi amici, parenti, lacchè e così via. Questo lascia intendere che non abbia nemmeno mai provato a cercarla nella sua intelligenza, non proprio. È che si arrangia proprio come tutti quelli che cercano qualcosa e non la trovano. Il tuttologo. In genere è una personalità esperta in un preciso campo del sapere, dove fa valere conoscenze ed esperienze acquisite negli anni. Il dramma è che si azzarda imprudente, figlio or prodigo, a vergare prose perniciose a ciel sereno su questioni di palpabile estraneità rispetto alle sue competenze, e quando ciò accade rimbecillisce esponenzialmente fino a generare potenti vortici dapprima di insensatezza, poi di sconcerto e delusione in coloro che a tale figura riconoscevano un certo estro intellettuale, magari anche gloriosamente meritato, ora messo in disparte da un altrettanto meritato imbarazzo imperituro. Il che può anche sembrare ingiusto, ma ci solleva dal peso immane di dover sopportare intere tonnellate di opinionismi irrilevanti da parte di qualunque balzano professionista logorroico che abbia mai conseguito qualche credito formativo universitario in vita propria. Mi pare di aver qui racchiuso, pur non esaustivamente, i profili di particolare rilievo. Tenetevela alla larga, di persona, digitalmente, a mezzo stampa. L'uso di un antiparassitario e la disdetta degli abbonamenti dovrebbe tenervi al sicuro. Always, I really feel that I'm losing my best.